Sì, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, era utile fissare una soglia, siamo disponibili comunque a ragionare sulla possibilità di modificarla, se i dati dimostreranno che è necessario farlo, l'abbiamo detto dal primo minuto, continuiamo a ribadirlo, i dati di oggi però dimostrano come quel provvedimento abbia colto nel segno, insomma c'è una richiesta evidente, c'è una necessità evidente, anche nella nostra regione la povertà è sempre un dato crescente e quindi questa risposta era necessaria, utile e credo anche importante, insomma poi si può discutere di far sempre di più e far sempre meglio, però intanto siamo partiti e abbiamo introdotto un principio nella legislazione regionale che prima non esisteva. Io penso che questo vada valorizzato. I dati appunto di questi primi 2 mesi in realtà fotografano anche indirettamente, diciamo, un cambiamento del mercato del lavoro, con una presenza sempre più forte di working poor. Sì, l'altro dato interessante infatti è proprio questo, perché i dati dimostrano in controluce che anche in questa regione esiste insomma, un numero di persone sempre crescente che ha lavori precari, che ha lavori poveri, che ha un lavoro che non garantisce una soglia di reddito minimo, diciamo così. Quindi questo provvedimento, a dispetto di quanto dicevano i nostri critici, è rivolto a una fascia che è quella delle persone spesso di media età che sono state espulse dal mondo del lavoro o che fanno fatica a rientrarci, quindi un provvedimento doppiamente importante anche perché ci dice quali sono indirettamente, quali sono alcuni degli effetti delle politiche del lavoro fatte a livello nazionale.